come stessi andando in un matrimonio. 10 grammi, profumo Hermès. Fumiamo in pubblico, soldi e li spendo. Come se lavorassi ad Hollywood, margiela ai piedi. Come se stessi andando ad Holly. Lei mi chiama perché in tasca il mondo. Parto rotondo, mangio crudo. Fumiamo il doppio, alziamo il doppio. G-Star, taschi obese. Sto per cambiar l'Inde Balmen. DPG triple 7, siamo dei fottuti alieni. Da 0 a 23 come Mason Margiela. Sto bevendo quella e dopo parlo francese. Da un'altra galassia brillo come una stella. Avatar sulla terra pronti a prenderci il mondo. Piccoli selvaggi, distributori self service. Prendo quello che mi serve, farmi casa a Los Angeles. Fumo sativa, pensano che la faccio in casa. Anche se non trovano un cazzo, mi ribaltano casa. Culo.